cos'è quest'estate? Di Elisabetta Fiorito. Noi romani non stiamo nella pelle. Tra Mafia Capitale e le 5 Stelle speriamo di non passare le stalle, che poi resta la monnezza sulle spalle. Nessuno è innocente. Tutti ci hanno messo del proprio a fare danno e non venite mai a raccontare la barzelletta del sindaco che girava in bicicletta. Poi andava a parcheggiare il macinino di nascosto nel posteggio più vicino. Il popolo si sa, gioca a nascondino con la verità. Eppure è un po' cretino. Adesso arriva Sartre e dice: basta, ci penso io a cambiare mani in pasta. Alla puzza, da sto momento un qua, gli damo il nome Profumo de Città. E poi il marchio Roma c'è sta già sul mercato in una linea di bellezza. Mentre a Biagiotti si ispira all'eternità, a Raggi ci metti dentro a monnezza. Oh, stiamo messi proprio bene, stiamo. Oh, diteci una volta buona dove la buttiamo a spazzatura che noi altri produciamo. Se no, col cacchio che ancora le votiamo. E questa è la pasquinata di Enrico Bernard, un autore teatrale che si è prestato a questo gioco per noi, per introdurre l'argomento invece molto serio, tra il serio, appunto abbiamo sentito il faceto di oggi, che è il caos rifiuti a Roma e soprattutto anche in Italia, perché l'Italia non riesce a riciclare come gli altri paesi e soprattutto quello che sta succedendo a Roma, faremo poi un approfondimento anche nella seconda parte. Per capire che cosa non va, come si inceppa il meccanismo dei rifiuti in Italia, abbiamo in linea Stefano Ciafani, direttore generale di Lega Ambiente, e Roberto Antonini, giornalista di Dire, dell'agenzia Dire, specializzato proprio in ambiente. Allora, Stefano Ciafani, oggi c'è un'intervista di Raffaele Cantone, il presidente dell'Anticorruzione al Messaggero, che dice: l'immondizia è un grande affare, ma bisogna dire stop al sistema delle discariche, perché altrimenti non se ne esce. È così? Sì, diciamo, tutte le emergenze che abbiamo visto negli ultimi 25 anni nel nostro paese, insomma negli anni 90, al 96 Milano finì sotto 40.000 tonnellate di rifiuti in strada perché fu chiusa la discarica di cui si serviva il capoluogo milanese. Nel 2001 è successo a Napoli e il resto della Campania, negli anni successivi è successo a Palermo. A Roma sta succedendo da 3 anni a questa parte, da quando è stata chiusa finalmente la discarica di Malagrotta, che è l'impianto che ha anestetizzato in senso negativo il ciclo dei rifiuti della città di Roma e del resto della regione Lazio. Quando il ciclo dei rifiuti si fonda su un unico impianto, la discarica, e non ci sono alternative, l'emergenza è dietro l'angolo. Roma non sta vivendo l'emergenza delle migliaia, decine di migliaia di tonnellate che rimangono in strada, come avvenne a Milano, a Napoli nel 96 e nel 2001, ma vive una situazione assolutamente negativa di un ciclo di rifiuti che oggi fortunatamente non usa più la discarica di Malagrotta, ma che sta esportando i suoi rifiuti fuori regione, negli impianti di compostaggio nel nord-est, tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, nelle discariche in giro per l'Italia, soprattutto in Emilia-Romagna. Roma deve a fare una raccolta differenziata seria, non ha gli impianti di riciclo sul proprio territorio e quindi sta, come dire, alimentando l'economia del trasporto su gomma di rifiuti che viaggiano in tutto il paese. Si è superata per certi versi l'economia della discarica romana, si sta alimentando l'economia di impianti fuori dalla regione e questa cosa deve finire. Non si è riusciti a farlo durante, diciamo, la giunta Marino, non riusciamo a capire che cosa voglia fare la giunta Raggi sul fronte della nuova raccolta differenziata di Roma e soprattutto sul fronte degli impianti di riciclo che la città di Roma dovrà necessariamente costruire, pensare oggi, pianificare oggi per mandarli in esercizio fra un anno o due, perché questi sono purtroppo i tempi tecnici. Allora, vi ricordo il numero per gli sms: 800240024, scusate, il numero per le telefonate, invece il numero per gli sms è 349-238-6666. Roberto Antonini, giornalista dell'agenzia Dire. Oggi abbiamo anche un'intervista dell'assessore di Roma all'ambiente, Paola Muraro, che è accusata accusata poi di conflitto di interessi per delle consulenze che lei avrebbe fatto proprio per l'AMA, che è la municipalizzata di Roma. Allora, non se ne esce perché in Italia non si ricicla. Che cosa fanno gli altri paesi? Perché abbiamo chiuso Malagrotta, che cosa dovremmo fare? Dovremmo mettere degli inceneritori? Dovremmo invece fare, come dice Legambiente, degli impianti di compostaggio? Non si riesce mai a capire come si può snellire questo processo. Allora, il problema di Roma, buongiorno a tutti, il problema di Roma è fondamentalmente lo stesso problema dell'Italia, cioè che mancano gli impianti per chiudere il ciclo dei rifiuti orientato alla differenziata, al recupero e al riciclo in maniera corretta. I dati della differenziata in Italia, parlo di dati del rapporto ISPRA 2015, quindi riferito al 2014, parlano di un avvio al riciclo del 45,2% della produzione di rifiuti, è un miglioramento del 3% rispetto all'anno prima. La differenziata è maggiore al nord con un 56,7%, minore al centro 40,8% e ancora minore al sud 31,3%, però non dobbiamo pensare che sia una situazione drammatica uguale in tutta Italia. In realtà abbiamo una situazione a macchia di leopardo, perché a fianco a situazioni di emergenza, di crisi, abbiamo situazioni di eccellenza. Tanto per fare un esempio, praticamente tutti i comuni della Campania tranne Napoli hanno livelli di differenziata che toccano quasi il 65%, che è l'attuale target che l'Italia doveva raggiungere nel 2012, invece con il 45,2% abbiamo raggiunto il target del 2008, quindi siamo sostanzialmente 6 anni in ritardo. Scusa Roberto, quant'è per esempio questa raccolta differenziata a Roma, visto che stiamo parlando? La differenziata a Roma, l'ISPRA la attesta attorno al 35, quindi abbiamo molto dati bassa. Che parlano del 40, insomma siamo intorno al 35 al 40. Il fatto è che c'è una grandissima perdita per il tipo di tecnologia usata, cioè i TMB, che sono dei separatori, diciamo, però molto grezzi, una differenziata non di precisione, diciamo, hanno qualcosa come il 40% di scarto. Il problema è che andrebbe chiuso il ciclo con impianti adeguati. E ora noi cosa facciamo? Sostanzialmente l'Italia manda il 31% dei propri rifiuti solidi urbani in discarica, il 17% va negli inceneritori con recupero energetico, solo elettrico o in cogenerazione anche termico. Quindi in sostanza il 48% va tra inceneritori e discarica e il 42% viene riciclato. Però va detto che dove si costruisce un ciclo integrato di recupero che appunto compie la differenziata nella maniera corretta, automaticamente si riduce il conferimento in discarica. Una cosa che si dovrebbe fare sarebbe seguire degli esempi virtuosi, come ad esempio quello della Regione Marche, che ha modulato l'ecotassa, cioè il sovrapprezzo che si paga per conferire i rifiuti in discarica, modulandolo alla percentuale di differenziate che ogni comune raggiunge, nel senso non tutto si ricicla, una piccola parte alla fine bisognerà mandare in discarica, però chi ricicla di più pagherà di meno per mandare in discarica, questo è un disincentivo a usare la discarica. Applicando questa regola nelle altre regioni si darebbe una spinta al ricorso al riciclo. Mancano gli impianti di dettaglio che terminino il ciclo della differenziata. Ad esempio ci sarebbe bisogno di più digestori anaerobici che riescono a trattare l'organico tramite... Ecco, no, se ce lo spieghi, perché sembra... Producendo biogas. Perché sembrava tipo un attrezzo da palestra, esattamente. Il biodigestore un po' nel nome comprende la sua funzione, il rifiuto organico viene scomposto, si produce gas che può essere utilizzato, il biogas e metano, è lo stesso gas che esce in maniera incontrollata, o meglio incontrollata, che esce dalle discariche e viene nei casi migliori recuperato, nei casi peggiori si disperde nell'aria. Quindi la parola d'ordine è impianti, completare il ciclo e soprattutto, questa è una cosa molto importante, uscire dalla logica dell'emergenza. 20 anni di emergenza hanno fatto sì che non esista una programmazione, perché quando si ragiona sempre appunto sull'emergenza si compiono scelte che non sono quelle più corrette. Nell'emergenza spesso si annidano, i problemi che poi sconfinano dalla gestione dei rifiuti magari a qualcosa di peggio. Insomma, nelle emergenze, poi l'abbiamo visto nelle storie recenti italiane, purtroppo si infilano anche le ecomafie, si infila la criminalità organizzata. Stefano Ciafani, abbiamo sentito quindi basta discariche, bisogna riciclare, ma il riciclo dovrebbe partire già da una raccolta fatta per condominio, dove ognuno porta porta l'immondizia fuori magari 2 ore al giorno, viene raccolta e si eliminano questi terribili cassonetti che continuano ad esistere a Roma e che non esistono più in molte città del nord. Sì, è così, insomma, non solo in città del nord, perché ormai le raccolte domiciliari, le raccolte porta a porta sono diffuse un po' su tutto il territorio nazionale, dai primi comuni di ricicloni del nord Italia, magari medio piccoli, che premevamo negli anni 90, questa modalità di raccolta che premia per percentuali di raccolta differenziata raggiunte e per la qualità della raccolta differenziata, che è fondamentale per l'avvio al riciclo dei rifiuti, ormai viene utilizzata nelle città anche più grandi, anche quelle del centro, del centro-sud, la città di Salerno, 150.000 abitanti, la città di Andria, 100.000 abitanti in Puglia, così come Cosenza o Catanzaro in Calabria, sono tutti capoluoghi di provincia che nel sud fanno raccolte domiciliari con punte di differenziata che arrivano al 65%. Poi ci sono, diciamo, le esperienze anche nel nord, quelle su città di grandi dimensioni, c'è l'esempio di Milano che fanno raccolta domiciliare per una città che ospita 1.300.000 abitanti con percentuali che superano il 50%, la città di Parma, capoluogo di 200.000 abitanti, che non solo ha una percentuale differenziata grazie alla raccolta domiciliare superiore al 75%, ma da un anno a questa parte fa pagare i cittadini in base alla tariffa puntuale, cioè i cittadini della città di Parma da un anno pagano per quanti rifiuti indifferenziati producono, quindi più separano i rifiuti, più li avviano al riciclo, meno pagano. Questo vale per le utenze domestiche così come le utenze produttive. La raccolta domiciliare è uno strumento fondamentale per permettere il maggior riciclo dei rifiuti, ci sono esperienze metropolitane come Milano, Roma deve fare la stessa cosa, ma su questo, ecco, appunto, non riusciamo, ripeto, a capire che cosa vuole fare la giunta Raggi, perché insomma, se vuole risolvere il problema dei rifiuti deve aumentare la raccolta differenziata. Per aumentarla bisogna abbandonare il sistema dei cassonetti che riguarda 2/3 della città di Roma, solo 1/3 della città di Roma è servita dalla raccolta domiciliare, e poi insomma, come abbiamo ripetuto anche all'inizio di questa trasmissione, la raccolta differenziata non basta, servono gli impianti che riciclano i rifiuti raccolti in modo differenziato. E anche sotto questo punto di vista la confusione, ecco, in questi giorni si sta facendo grande polemica tra schieramenti, ma non si sta parlando del merito delle questioni. Vorremmo sapere che cosa si deve fare dei rifiuti raccolti in modo differenziato a Roma, di quelli che verranno, speriamo, differenziati in quantità sempre maggiori nei prossimi mesi, nei prossimi anni, e dove dovranno essere trattati questi rifiuti. Roma deve fare i suoi impianti, altrimenti continueremo a insistere su altri territori in giro per il paese, alimentando il business dei trasportatori su gomma, che oggi sono molto contenti della mancanza degli impianti della città di Roma per gestire i rifiuti. Intanto arrivano i primi sms dei nostri radioascoltatori. Il problema di Roma sono i romani, dice Corrado da Milano. È vero, io dico che è vero molto spesso, i romani, i miei concittadini, sono poco attenti a queste tematiche. L'Europa ci dice di chiudere le discariche, che le statistiche europee dicono che si sostituisce con raccolta differenziata e waste to energy, dice Antonio. E poi Ulisse dice: il problema della raccolta di rifiuti a Roma è vergognoso, perché Roma non è la città qualunque, ma è la capitale d'Italia. Noi intanto diamo la linea alla regia. Ma cos'è quest'estate? E noi continuiamo a parlare del caos rifiuti a Roma e continuiamo con Roberto Antonini, giornalista dell'agenzia Dire. Roberto, insomma, il quadro a Roma non è edificante, abbiamo sentito degli esempi molto virtuosi anche al sud, anche a Salerno. perché non si riesce? È, come dice qualche radioascoltatore, una questione per esempio anche di mentalità, i romani gettano le carte per strada. Personalmente devo dire che sta cambiando, si vede nella città, però alle volte i cittadini romani hanno la sensazione di fare la raccolta differenziata, di lavare tutte le vaschette per metterle nella plastica, per, di mettere il vetro, e poi magari l'ama fa tutto quanto un mischione e butta tutta a malagrotta. Allora, detto che i materassi e le cucine a gas da sole in strada non ci vanno e quindi qualcuno se le porta, è evidente che un problema i cittadini ce l'hanno, nel senso di rispetto della propria città. Esistono dei centri di raccolta, però sono, se ricordo bene, 5 in tutta la città, per una città che ha circa 4 milioni di abitanti, 2 milioni e 8 registrati all'anagrafe, sono un po' pochi, nel senso ci sono dei servizi che ti vengono a prendere a casa i rifiuti ingombranti pagando qualcosa come 18 euro, cioè se ne potrebbe avvantaggiare, quindi serve sicuramente una spinta da parte del cittadino. Dall'altro lato però l'amministrazione deve venire incontro al cittadino, se i centri di raccolta sono pochi e il cittadino con tutte le cose che ha da fare trova faticoso arrivarci, magari poi li trova chiusi o non trova un'accoglienza diciamo efficiente, può essere disincentivato. Quindi sì, da una parte i cittadini vanno sensibilizzati, devono capire che il gesto di buttare qualcosa nel cestino non esaurisce lì la vita della roba che è stata buttata, la vita dell'immondizia parte da quel momento. Allora, se noi, diciamo, a Roma si è sempre detto che tanto che se pari a fare poi li rimettono tutti insieme, questo non è un modo, come dire, sì, questo è un po' pensare. La volgata popolare, sì. Sì, ma è un po' anche, come dire, una specie di leggenda metropolitana, perché comunque qualsiasi cosa si faccia, se si separa ad esempio la plastica, anche se non viene riciclata per utilizzare altra plastica, ma viene usata per aumentare il potere calorico del combustibile da rifiuti, di quello che si ricava e si butta poi negli inceneritori, comunque qualcosa si è fatto. Il punto è che in ogni caso, siccome abbiamo capito perfettamente che così non possiamo andare avanti, sarebbe buona regola incominciare a prepararsi già oggi a un futuro più virtuoso. Quindi io penso che sia giusto continuare a essere virtuosi in casa e poi comunque pensare che quando ci si lamenta del costo della tassa dei rifiuti che si paga ogni 6 mesi, quel costo dipende anche dalla mancanza di comportamenti corretti dei cittadini. Se tutti si comportassero meglio, ma chiaramente se il comune poi mettesse a disposizione un sistema di gestione dei rifiuti corretto, quella tassa andrebbe a calare. I rifiuti costano tanto perché vengono gestiti male. Allora, questo è il problema. Da noi si paga la tassa sui rifiuti in funzione di quanto si ricicla, dice un ascoltatore nella provincia di Bergamo, e noi andiamo in Lombardia perché abbiamo in linea Marco Granelli, assessore alla mobilità e all'ambiente del Comune di Milano, e le vogliamo chiedere proprio qual è l'esempio di Milano. Purtroppo dobbiamo ammettere che Milano poi fa da esempio un po' a tutta quanta Italia. Buongiorno a voi, agli ascoltatori. Purtroppo era ironico, ovviamente. No, vabbè, ma ci seguo, noi fa piacere lavorare su questo tema. In questi anni abbiamo fatto un profondo cambiamento. Oggi la percentuale di rifiuti che vengono appunto utilizzati è il 53%, quindi una percentuale che per le grandi città è molto significativa, e soprattutto noi abbiamo introdotto nei 5 anni scorsi la raccolta della frazione umida, che oggi costituisce il 21% dei rifiuti. La raccolta della frazione umida porta a porta, cioè in casa nei condomini. Questa è stata un'innovazione, siamo leader in Europa su questo, ci ha permesso di togliere i cassonetti che creano comunque disagio in strada e di farlo porta a porta. Su questo devo dire che abbiamo fatto una grossa campagna di sensibilizzazione, abbiamo anche investito dando ai cittadini contenitori, sacchetti per un certo periodo, in modo da creare un'alleanza. Io penso che la strategia vincente sia un'alleanza con i cittadini e un servizio efficiente. Ecco, assessore, lei ci sta dicendo praticamente che il momento che si mette una raccolta differenziata porta a porta e si eliminano intanto i maleodoranti cassonetti, poi si ha anche un controllo maggiore dei cittadini, perché i cittadini nel cassonetto possono anche mettere quello che non ci andrebbe, mentre il porta a porta devono rispettare, perché ci sono gli altri inquilini che controllano, giusto? Sì, perché poi purtroppo spiace, ma bisogna fare molta promozione, ma poi noi abbiamo anche gli ispettori che quando si fa la raccolta nei condomini vanno a verificare se ci sono le sanzioni che poi pagano i condomini, e quindi si innesca un processo, diciamo, da una parte che promuove, che fa conoscere, e dall'altra che anche però dice che le regole vanno rispettate e c'è la sanzione, ecco. Bisogna usare tutti e due gli strumenti, aiutando un cambiamento culturale, facendo capire che il cittadino deve essere responsabile e che l'amministrazione aiuta, però ecco, ci vuole all'inizio una capacità di mettere un po' di risorse e di dire al cittadino: ti aiuto a fare la raccolta differenziata. Un'ultima domanda, assessore, prima di lasciarla al suo lavoro: che cosa consiglierebbe all'assessore Paola Muraro del Comune di Roma? Ma io penso, tanto è un compito gravoso, però è importante trovare un buon rapporto con i cittadini, far capire ai cittadini che si è insieme, perché se risolviamo i problemi li risolviamo a tutti, e l'altra a cercare di un rapporto forte con l'azienda, avere proprio una partnership con l'azienda individuata e day by day verificare tutto, costruire le procedure insieme con l'azienda, perché ci vuole tanta professionalità. Raccogliere i rifiuti non è un lavoro semplice. Sì, ma l'assessore Muraro era in parte consulente dell'AMA, quindi è un po' particolare come situazione. Su questo io non entro nel merito di questa cosa. Certamente io con il municipalizzato ho rapporto con, ad esempio, con l'AMSA per i rifiuti, la TM per i trasporti, eccetera. Bisogna avere molta chiarezza di rapporti, perché comunque l'azienda è al servizio del cittadino e del comune, e quindi il comune deve saper chiedere le cose con determinazione all'azienda, ma anche capire con l'azienda quali sono i processi, e quindi dire: la bacchetta magica non c'è nessuno, né il comune né l'azienda. Dire: ci prendiamo 6 mesi, 9 mesi, un anno per raggiungere alcuni obiettivi, li mettiamo in calendario, li seguiamo giorno per giorno e vediamo come cambiare. I grandi problemi si cambiano con una strategia del giorno per giorno, salendo un gradino ogni giorno. Ringraziamo allora l'assessore alla mobilità e all'ambiente del Comune di Milano, Marco Granelli. Molti gli SMS da noi a Trieste, 200.000 abitanti, ci sono 5 centri di raccolta con raccolta punti e premi finali. E molti dicono: a Lavinia di Roma c'è una differenziata assurda. Lavinio, essendo un luogo residenziale di seconde case dei romani. E noi torniamo un po' al caos romano, perché l'assessore all'ambiente Paola Muraro, che noi abbiamo cercato, del Movimento 5 Stelle, ha rilasciato però un'intervista al Fatto Quotidiano e ha dato la sua versione. Denunciai le truffe sui rifiuti, ma non hanno mai fatto nulla. Lei è sotto il mirino perché è accusata di conflitto di interessi dal PD per consulenze con l'AMA, quindi la municipalizzata di Roma, che le hanno fruttato in 10 anni 1 milione di euro. Lorenzo De Cicco, giornalista del Messaggero, che sta seguendo questa vicenda. Qual è l'opinione che ti sei fatto, Lorenzo, su questo conflitto di interessi e sull'assessore Paola Muraro? Allora, sicuramente Paola Muraro è un'esperta di rifiuti, come l'ha presentata Virginia Raggi quando l'ha nominata nella sua giunta. Il discorso è che sul suo ruolo nella squadra di governo di Roma ci sono, secondo me, due aspetti che vanno chiariti. Uno è quello del conflitto di interessi a cui accennavi tu. Lei è stata per 12 anni consulente di AMA, appunto pagata, diciamo, non poco, perché oltre 100.000 euro l'anno, con un incremento iniziale, diciamo, sostanzioso durante gli anni della gestione di Giovanni Fiscon, l'ex direttore generale, che poi è finito coinvolto anche in mafia capitale. E si racconta che nell'azienda dell'AMA la sua stanza fosse proprio all'interno degli uffici di Fiscon. Poi in realtà devo dire, anche durante la gestione Marino ci sono stati ulteriori aumenti fino ad arrivare appunto alla cifra che ormai tutti conosciamo. Cioè l'assessore, quindi, Miglioncino la chiamano dal PD. L'assessore Miglioncino, insomma, sì, la cosa è ieri la capogruppo del PD. La cosa un po' che fa insospettire, appunto, che in 10 anni 1 milione di euro non è una cifra poco considerevole. Ecco, lui ha detto: io ho fatto il mio lavoro, sì, però è comunque ben retribuito. Sì, e qui arriviamo al, diciamo, al, al secondo aspetto da, da chiarire, su cui, diciamo, ovviamente si è, si sta agitando l'opposizione, e cioè il fatto che lei per AMA, di fatto l'ha detto anche il presidente dell'AMA Fortini, svolgeva un ruolo, diciamo, da dirigente esterno, e si doveva occupare della supervisione degli impianti di TMB, insomma sono, sembrano dettagli tecnici, però se poi questi impianti... Scusami, Lorenzo, TMP che cosa vuol dire? TMB sono degli impianti di trattamento meccanico biologico, e sono soprattutto dei due impianti, quelli di proprietà dell'AMA in via Salaria e a Rocca Cencia, gli impianti dove adesso sta indagando anche la Procura di Roma. L'altro impianto su cui sta indagando la Procura di Roma è invece quello di un privato, di Manlio Cerroni, il RAS dell'immondizia di Roma. E che lui si difende, no? Si è difeso in questi ultimi, anche da, sul vostro giornale, lui ha detto poi alla fine io sono un benefattore della città, 86 anni, devono sempre ritornare da me, perché anche il, l'impianto di Rocca Cencia appartiene a lui, ma lui l'ha affittato, questi sono proprio i bizantinismi romani, lui l'ha affittato come la storia perché è sotto inchiesta, quindi adesso il comune l'ha preso, lo prende in affitto da un'altra ditta, no? Ci sono queste... Allora, Manlio Cerroni l'ha affidato a Porcarelli, alla ditta di Porcarelli, che è un, diciamo, una persona, un altro imprenditore con cui Cerroni fa affari da anni, quindi possiamo definirlo un suo fedelissimo, comunque una persona a lui molto vicina. Paola Muraro, prima che si sapesse che anche questo impianto venisse, diciamo, finisse nel mirino dei magistrati, proprio in una diretta streaming su Facebook insisteva con il presidente dell'AMA Fortini dicendogli cerchiamo di utilizzarlo perché altrimenti non se ne esce dall'emergenza dei rifiuti, non mi interessa di chi è. Pochi giorni dopo, due giorni dopo, si è saputo che questo impianto era all'attenzione della Procura di Roma, e quindi, diciamo, è da lì che poi sono iniziati i malumori, anche in realtà della, dice, di una parte della base grillina. Ieri Paola Muraro ha scritto un post lungo sul blog di Beppe Grillo, quindi diciamo che almeno in questa fase ha avuto, sembra, una copertura politica anche dai vertici nazionali, però certo bisogna vedere anche cosa uscirà fuori nei prossimi giorni. Noi oggi sul Messaggero, per esempio, sul passato di Paola Muraro, raccontiamo che proprio pochi mesi fa, nel 2015, quando era ancora consulente di AMA, lo è stata fino a giugno del 2016, riassunse nel suo studio di consulenza ambientale una delle licenziate di Parentopoli, lo scandalo nato nel, diciamo, scoppiato nel 2011, che riguarda delle assunzioni, l'ha detto il Tribunale di Roma, clientelari e slegate da qualsiasi merito, senza neanche presentare il curriculum, che erano state fatte sotto la gestione dell'ex amministratore delegato Franco Panzironi, anche lui oggi coinvolto in mafia capitale. Insomma, ci sono delle cose che l'assessore dovrà chiarire. Io intanto saluto il giornalista olandese di NRC, quotidiano olandese, Mark Langedecker, spero di aver pronunciato bene il nome, e gli chiedo, flash, prima della viabilità, poi lo risentiamo subito dopo, che cosa succede in Olanda e che impressione ha avuto stando a Roma? Ma in Olanda, diciamo, non c'è problema con la raccolta dei rifiuti, perché abbiamo già da anni un sistema in cui c'è una raccolta differenziata che funziona abbastanza bene. C'è anche la partecipazione abbastanza seria dei cittadini, allora seguono l'indicazione di come si fa questa raccolta differenziata, e non ci sono neanche questi problemi di dubbi, queste mancanze di trasparenza nella gestione di questo problema. Mark, ma è vero che voi comprate l'immondizia all'estero perché avete troppi impianti, cioè avete riciclato talmente tanto che praticamente noi vi spediamo treni di immondizia che voi poi lavorate, così? Questo è vero, perché abbiamo investito molto su questi inceneritori, abbiamo anche, diciamo, con questa politica dei rifiuti, abbiamo visto una diminuzione della raccolta, allora ci sono meno rifiuti, c'è una capacità più grande, e per questo diciamo di tutte queste inceneritori che abbiamo, più di un 12% viene dall'estero. Quindi voi avete un sistema che addirittura avete più impianti che rifiuti, questo è un sistema virtuosissimo. Ci sono molti SMS e dicono tante cose, ma se il problema è la discarica bisogna chiuderla, giornalisti senza dignità che attaccano la Raggi, poi una signora dice io ho una casa che è chiusa e pago 289 euro di rifiuti, perché insomma la raccolta porta a porta sta procurando, un radioascoltatore Gianluca da Terni dice città sporche e discariche sparse, quindi un parere contrastante. Alessandra invece è molto arrabbiata perché si paga la tassa sui rifiuti ma si lasciano sacchetti qua e là. Allora Lorenzo, abbiamo sentito Mark, appunto Leijendecker, giornalista olandese, che ci dà un esempio fondamentale. In Olanda ci sono più impianti che abitanti, qui a Roma è completamente opposto. Se ne uscirà mai, cioè si uscirà dal fatto di poter avviare una raccolta porta a porta, di cambiare la mentalità di quello che è la nostra città, la città di Roma e la nostra capitale? Allora, intanto la Muraro lo ha detto in un vertice con i sindacati della settimana scorsa, ha detto che per loro la mappa del porta a porta di Roma va cambiata, anzi ci sono dei quartieri dove era stata era stata installata, adesso verrà completamente smantellata perché non funziona, perché evidentemente secondo lei ci sono proprio dei condomini dove non ha senso farlo, quindi in realtà forse ci saranno dei passi indietro, magari in altre zone invece verrà portata avanti. E dall'altro il problema di Roma sono appunto gli impianti, e l'ha detto anche ieri la Raggi in consiglio comunale, c'è stata una discarica che è appunto quella di Malagrotta, sempre di Cerroni, che è stata un'immensa cloaca di immondizia per 40 anni e dove veniva nascosta, messa con il placet della politica. E c'erano poi, anche delle denunce, no? Per comunque dei casi, e poi tutto da accertare ovviamente, sì, nelle mani delle magistrature, no? Dei casi di cancro, dei malori degli abitanti lì nei dintorni poi di Malagrotta. Sì, sì, sono casi appunto all'attenzione dei magistrati, vedremo insomma se poi ci saranno delle condanne oppure no. Anche l'Unione Europea aveva proprio criticato invece la gestione del ciclo dei rifiuti, affidandosi soltanto a una discarica, una mega discarica come quella, la discarica più grande d'Europa. Il discorso è che se non si fanno impianti Roma non diventa autosufficiente, e in teoria fino ad oggi li continuiamo a portare in altri comuni del Lazio o fuori regione. Adesso si partirà a novembre la gara che li dovrebbe portare i rifiuti di Roma addirittura in Germania, quindi si spendono sicuramente molti soldi per portarli all'estero, e soldi che invece potrebbe addirittura guadagnare AMA e quindi indirettamente il Comune di Roma se ci fosse una rete di impianti adeguata. Con 600 milioni di debiti, come ha detto ieri Raggi, Jacopo Giliberto, il giornalista del nostro quotidiano Il Sole 24 Ore, buongiorno Jacopo, che impressione hai avuto di questa prima impasse del Comune di Roma, della gestione della sindaca Virginia Raggi? Buongiorno a tutti intanto, della sindaca nuova ovviamente non riesco a esprimermi perché sono state, come dire, pochissimi eventi, ma uno è centrale, questo dei rifiuti, e ho veramente l'impressione che Raggi erediti una situazione di decenni di una città che non riesce a uscire da questa situazione, dalla dipendenza, dalla discarica di Malagrotta per esempio, ma in generale da una situazione di dipendenza. Mi permetto di notare una cosa, il problema secondo me, e questo lo dice l'esperienza di tanti casi in Italia, non sono i cittadini che non fanno la raccolta differenziata, il problema è a monte, cioè quando non viene dato loro il servizio. Ci sono delle città del sud, in Campania, parliamo del caso di Salerno per esempio, che è stato molto indicativo, in cui c'è un efficiente servizio di raccolta differenziata, e dal momento in cui questo servizio è cominciato i cittadini immediatamente hanno cominciato a separare i rifiuti correttamente, contribuendo a ridurre i problemi e l'emergenza. E parliamo di Campania, di Sicilia, di Puglia, di Calabria, cioè di luoghi dove l'abitudine, il luogo comune dice che sono degradati e con scarso senso civico, ed è solo un luogo comune. Il problema è quando non si dà al cittadino il servizio. Lo sporco chiama sporco: se non viene il camion a ritirare i rifiuti quando il cassonetto o i bidoni della raccolta differenziata sono pieni, poi si formano i cumuli di immondizia. Deve essere il sistema pubblico che dà il servizio al cittadino. Il cittadino poi risponde sempre quando viene dato il servizio corretto. Quindi non sono i romani il problema è che poi alla fine è l'ama che non funziona, perché un virtuosismo accende un altro un circolo virtuoso. Questo è quello che dici, Gilberto, Jacopo? Sì, spesso è così, e quando finalmente Roma riuscirà ad avviare un sistema, vedremo tutti insieme che i romani poi, certo, poi la persona in civile c'è sempre dappertutto, però comincerà a partire un servizio efficiente. E la dipendenza dalla discarica, per 50 anni dalla discarica tutto fare, ha generato una pigrizia, una molto comodo. Devo osservare un aspetto: c'è un bellissimo articolo oggi su Sole 24 Ore di Gianni Trovati che fa i conti in tasca alle diverse città, e Roma ha la tariffa rifiuti più alta pur avendo un servizio così modesto, e c'è qualcosa che non funziona. Milano e Torino hanno tariffe rifiuti molto più basse e un sistema impiantistico funzionante, e le raccolte differenziate come quelle olandesi, che sono tra le più alte in Europa, abbiamo impianti. Come in Olanda ci sono impianti che hanno bisogno di avere materiale e che sono in sofferenza perché la raccolta differenziata toglie materiale ai grandi inceneritori, che non sono solo inceneritori, attenzione, sono centrali termiche, perché riscaldano interi quartieri delle grandi città del nord. Brescia, per esempio, è quasi interamente riscaldata, si spengono le caldaie condominiali e viene riscaldata dalla combustione dei rifiuti, e hanno bisogno di questi materiali per dare l'acqua ai cittadini, l'acqua calda e il riscaldamento ai cittadini. Jacopo, infatti i nostri radioascoltatori, Lorenzo da Padova ci chiede: ma perché non si costruiscono i termovalorizzatori? Mentre Sergio da Milano dice: ricordo che Grillo è un fiero oppositore dei termovalorizzatori, come la mettiamo? Allora, bisogna costruirli i termovalorizzatori, non bisogna costruirli? Non è l'unica soluzione l'inceneritore, è indispensabile all'interno di una gamma di tante soluzioni impiantistiche e strutturali, è uno degli elementi, è uno dei tasti della tastiera da suonare, non può essere l'unico ovviamente. Puntare solo sull'inceneritore è perdente, l'inceneritore comunque non è un toccasana, non emette profumo, è comunque un impianto di combustione che genera inquinamento. Sicuramente è meglio di una discarica dal punto di vista ambientale, però non è la soluzione. Non è la soluzione. Ci sono molti radioascoltatori che dicono: a Firenze, a nord per Etola, la raccolta porta a porta, denuncia un radioascoltatore, è disastrosa. Rifiuti sui marciapiedi fino alle 10-11 del mattino. Era più pulita Bombay negli anni 80. La raccolta porta a porta è una bufala, dice questo radioascoltatore. Un altro, Damiano da Roma: ma l'assessora che si è abbeverata all'ama senza far mai rumore, adesso è solo capace di accusare e scaricare sugli altri le colpe? E una domanda per Lorenzo De Cicco: so che siamo un po' romanocentrici oggi, ma l'emergenza è a Roma. Roma sarà pulita per il 20 agosto? Perché prima ha detto la Raggi che sarebbe stata pulita in 10 giorni, adesso siamo arrivati al 20 agosto. Qual è la tua impressione, Lorenzo De Cicco del Messaggero? Sì, è vero, 20 giorni fa l'assessore Morale aveva detto entro mercoledì, senza specificare quale. Il 20 agosto sì, probabilmente diciamo la situazione migliorerà, anche perché una grande mano la daranno i romani che partiranno da Roma. Già da questo weekend, secondo le previsioni dell'AMA, ci dovrebbe essere una diminuzione della produzione di rifiuti intorno al 20%, quindi insomma andando avanti così e parallelamente essendo stata potenziata un po' la raccolta, ci saranno anche dei turni straordinari di domenica, si dovrebbe rientrare lentamente verso la normalità. Quello della domenica è uno dei paradossi del sistema del ciclo dei rifiuti di Roma, perché a Roma la domenica non si raccoglie l'immondizia, è per questo che poi basta andare in giro per la città lunedì e fare un confronto con gli altri giorni e vedere che è il giorno più critico in assoluto della settimana. Quindi secondo te bisogna comunque rimodulare anche il lavoro e far sì che gli spazzini o operatori ecologici lavorino anche la domenica. Ecco, Monica ci dice negli SMS: termovalorizzatori è una parola impropria, sono inceneritori. A Brescia l'inceneritore ha bloccato per anni la raccolta differenziata. Così per esempio Jacopo Giliberto del Sole 24 Ore: sì, sono inceneritori e come detto te bisogna usarli, ma moderatamente, perché bisogna sempre andare verso la raccolta differenziata. Altre soluzioni, ovviamente la raccolta differenziata è la base, ovviamente, e quando c'è il servizio e anche il porta a porta, di cui molti si lamentano, alla fine è ancora oggi il servizio più efficiente, altri sono molto meno efficienti. L'inceneritore comunque è indispensabile, tant'è che alla fine Roma può avere tutti i servizi che vuole, le raccolte differenziate, alla fine avrà bisogno di un inceneritore per completare il ciclo. L'importante è gestirlo bene, ma non vi si può rinunciare, è un'utopia dire facciamo senza inceneritori e senza discariche, sono comunque elementi finali della catena. Non esiste, non c'è oggi in nessuna parte del mondo, tranne alcune esperienze ridottissime, ma non esiste la possibilità di rinunciare alla chiusura del ciclo con queste tipologie di impianti, per quanto brutti e per quanto sgradevoli. Lorenzo, tu hai detto adesso la città si svuota, come ci fa notare Damiano da Roma, e quindi la monnezza non c'è più, perché ci sono, questa è la parola usata da Damiano, ci sono i cittadini non ci sono, e quindi tutto va per il meglio. La prima vera grana per Virginia Raggi: Paola Muraro secondo te si dimetterà? Io credo che potrebbe esserci un passo indietro solo nel momento in cui non è affatto scontato la Procura di Roma dovesse decidere di scriverla nel registro degli indagati, perché a quel punto, con accuse insomma diciamo che sarebbero più pesanti presumibilmente di quelle delle consulenze della ASL da 1.000 euro, 2.000 euro di cui si era parlato durante la campagna elettorale per Virginia Raggi, beh certo a quel punto forse sarebbe troppo scomoda, o comunque si dovrebbe passare per un voto sulla rete. Lei, Laura Muraro, ha sempre detto di essere assolutamente tranquilla sul suo operato, che non prende neanche in considerazione l'ipotesi di venire, di essere indagata, e quindi al momento il discorso non c'è. Come ho detto prima, la verità è che comunque una parte del Movimento 5 Stelle... Ti devo salutare, sì. Ok... Ma cos'è quest'estate? Io ogni tanto sentivo urlare la signora, però da qui a sapere quello che è successo, quello che faceva i bambini, non glielo so dire assolutamente. Anche perché, come lei può vedere, è sempre da qui non si vede niente, ma neanche dall'altra parte. Però che tipo di urla erano? Urlava contro, sentivo stai fermo lì, non ti muovere. Botte, insulti, morsi, bambini legati alle sedie, due arresti in un asilo nido a Milano. Siamo sconvolti dalle immagini che abbiamo visto anche in televisione e vogliamo capire come è stato possibile che questo accada poi nella capitale finanziaria anche del nostro paese. E proprio per questo oggi ci occupiamo di questo tema. Invitiamo i radioascoltatori anche a darci delle testimonianze. Ricordiamo il numero 800240024 e per gli sms 349-238-6666. E ne parliamo con il vice sindaco di Milano, Anna Scavuzzo. Buongiorno, vice sindaco. Buongiorno a voi. Ecco, che cosa è successo? È successo che qualcosa è andato storto, perché questo era un asilo nido per bambini molto piccoli, si sentivano le urla, si sentivano le grida e questi bambini venivano malmenati. Di fatto sì, quello che abbiamo sostanzialmente appreso anche grazie al lavoro dei carabinieri, che a seguito di una segnalazione hanno tenuto sotto controllo l'asilo e hanno permesso di arrivare alla formulazione delle accuse. Di fatto siamo davanti a persone che hanno malmenato questi bambini che erano all'interno della struttura, li hanno legati e tenuti al buio, addirittura sono arrivati a morderli. Qui siamo un po' oltre rispetto a metodi, come a qualcuno ha usato dire, un po' coloriti. Insomma, mi sembra che sia una fattispecie proprio di reato conclamata. Adesso ovviamente aspettiamo che gli inquirenti procedano e che la magistratura faccia il suo corso, però insomma le immagini che abbiamo visto lasciano poco margine, diciamo. Sindaco, questo asilo era un asilo privato, però la licenza, diciamo, d'apertura, la concessione per aprirlo era stata data da poco tempo. Che controlli ci sono a questi operatori? Perché l'impressione è che una persona si autodefinisce un educatore, apre un asilo, chiede, riempie quattro scartoffie, come si dice in gergo, e gli viene concessa l'apertura. E poi succede quello che succede. Come si può evitare? Allora, purtroppo erano in regola, nel senso che i controlli sono stati fatti nella tempistica che prevede la legge, c'è una legge regionale a cui si erano attenuti, ci sono dei controlli che poi sono stati fatti a seguito dell'apertura, e quindi formalmente questo era un asilo che aveva quello che, come dire, a oggi richiedeva, almeno appunto sulla carta. Ciò che c'è bisogno è forse trasformare un po' quelli che sono dei controlli, diciamo, di procedura, documentali e un po' formali, in controlli che invece siano sostanziali, cioè che facciano sì che si faccia una verifica nel tempo anche di quella che è la relazione educativa che si sviluppa all'interno di queste strutture. Questo era un asilo, adesso non voglio entrare troppo nel tecnico, però di fatto un asilo solo accreditato, cioè aveva rispettato la normativa regionale per l'accreditamento, rispettava una serie di anche come dire importanti vincoli, no? Dalle dimensioni degli spazi alla proposta complessiva sugli orari, sul rapporto con gli educatori e quant'altro. Di fatto quello che è mancato, io credo in maniera preponderante in questo caso, è invece una valutazione di quella che era la quotidianità di ciò che accadeva all'interno dell'asilo. Noi 2 settimane fa abbiamo chiuso un altro asilo, sempre dello stesso franchising, perché abbiamo rilevato, appunto facendo i controlli, che c'erano delle non conformità rispetto per esempio alla somministrazione del cibo, che è risponde a un criterio formale ma anche sostanziale, perché quello che dai da mangiare ai bambini è, come dire, fa parte anche della loro quotidianità, della possibilità di crescita. Oggi ci troviamo di fronte a un episodio estremamente più grave, ovviamente, però di fatto che ci fa tenere alta la guardia rispetto al rapporto che anche con i gestori, le persone, i dirigenti di questi asili dobbiamo tenere. Michela Vittoria Brambilla, presidente della commissione bicamerale per l'infanzia, deputato di Forza Italia, si dice: adesso bisogna mettere i controlli in tutti gli asili, le telecamere in tutti gli asili, sono oltre 60 casi negli ultimi 7 anni. Che cosa avete intenzione di fare in Parlamento? Buongiorno innanzitutto, buongiorno a tutti. Certamente a comportamenti di rilevanza penale particolarmente gravi, poi perché le vittime sono soggetti deboli, magari affidati proprio a quelli che si rivelano essere non i loro custodi ma i loro aguzzini, bisogna a nostro giudizio ricorrere a tutti gli strumenti disponibili di prevenzione e di repressione. Allora, sul fronte della prevenzione, mi pare quanto mai opportuna la proposta avanzata da Forza Italia, che attualmente è all'esame della Camera, che prevede, con alcune limitazioni e con altre misure di prevenzione, l'installazione di telecamere di sorveglianza in asili e strutture per anziani e disabili. È un'idea semplice in sé, approfondita poi in un ciclo di audizioni che è piaciuta anche molto al Garante per l'infanzia, Parliamo di un sistema, per intenderci, a circuito chiuso, con immagini accessibili solo previa autorizzazione della magistratura in presenza di una richiesta motivata. Ora, è chiaro, magari in astratto possono esserci perplessità, ma l'interesse del minore o comunque del soggetto debole è un bene di rango superiore rispetto alla privacy e quindi come tale deve essere tutelato senza se e senza ma. Naturalmente le telecamere di sorveglianza non sono una panacea e non risolvono tutti i problemi, perché prima ancora della tecnologia servono, se parliamo di asili, iniziative per rafforzare il patto di fiducia tra famiglia e istituzioni formative o scolastiche, che non possiamo permetterci di mettere in discussione. Quindi condizioni di lavoro non stressanti, ad esempio ricordo che è obbligatorio anche per le scuole la valutazione dei rischi di stress lavoro correlato, no? E poi un ragionevole rapporto numerico tra bambini e maestre, piuttosto che maestri, frequenti corsi di aggiornamento, uno sforzo generale per innalzare gli standard di qualità degli operatori, che devono essere capaci di leggere i fattori di rischio anche tra i colleghi, no? Quindi superando qualsiasi forma di omertà, e poi riconoscere precocemente i segni di maltrattamento. Nella stessa direzione bisogna muoversi poi per quanto riguarda le case famiglia e le residenze per anziani e per disabili. Questo per quanto riguarda la prevenzione. Il secondo punto, dicevo velocemente, la repressione, perché quando certi fatti, nonostante tutto, si verificano, vanno puniti con rigore. Cioè gli abusi compiuti su soggetti deboli meritano certamente maggiore severità. Nel 2009, come saprete molto opportunamente, quando eravamo al governo, introducemmo all'articolo 61 del codice penale un aggravante per i delitti contro i minorenni commessi all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione. Ora io da tempo penso che quel discorso vada completato e quindi nello scorso febbraio ho depositato una proposta di legge che aggiunge il caso di altre vittime in condizioni di particolare debolezza, cioè se la mia proposta di legge venisse approvata diventerà aggravante anche l'aver commesso il fatto in danno di persona ricoverata presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali o comunque in danno di soggetti minori ospitati presso comunità familiari o comunità socioeducative. Ecco perché la repressione, a mio giudizio, è un altro punto importante, proprio che i casi sono stati tanti, lo avete detto. Vice Sindaco, poi andremo al professor Ernesto Caff, presidente del Telefono Azzurro. Vice Sindaco, abbiamo sentito Micaela Vittoria Brambrilla, presidente della commissione bicamerale sull'infanzia, ma mettere le telecamere in tutti gli asili di Milano, quanto costerebbe? È un costo che una pubblica amministrazione può sostenere? Ma io credo che sia da valutare anche la gestione di questi impianti, perché oltre all'installazione ovviamente c'è poi un utilizzo e una manutenzione che ovviamente dovrà essere valutata. Non so risponderle su due piedi rispetto all'importo economico. Io credo che noi dobbiamo concentrarci, per quel che riguarda la nostra amministrazione, su tutta quella fase di prevenzione che ben illustrava l'onorevole Brambilla, perché certamente la creazione di un contesto che faccia in modo che non ci siano educatori che in solitaria possono esercitare coercizione o picchiare i bambini, credo che sia il livello minimo a cui dobbiamo attestarci. Su tutto l'impianto di tecnologia ho recepito insomma lo stimolo, non sono così convinta che sia la soluzione, però aspetto di capire meglio che tipo di percorso si intenda fare. Diciamo che riversare sull'ente pubblico anche questo, l'ente locale anche questo, è impossibile, la vedo complicata. Allora, il professor Ernesto Caff, presidente del Telefono Azzurro e professore poi ordinario di neuropsichiatria infantile, qual è la soluzione? Perché abbiamo visto che questi casi purtroppo non sono isolati e poi colpiscono le persone più deboli, i bambini e gli anziani e disabili. Ma da una parte è importante sapere che per i bambini i primi anni di vita sono fondamentali per uno sviluppo adeguato e hanno bisogno di avere accanto a sé persone in grado di ascoltarle, di capirle, di curarle. I genitori, ma anche degli educatori formati e preparati. Quello che è mancato in questo caso, come in altri casi, è la competenza di chi fa questo difficile e complesso lavoro, quello di ascoltare i bambini e di curarli. Talvolta gli adulti non sono preparati ad affrontare queste sfide che i bambini propongono, di pianti, di resistenze, talvolta dei modelli educativi che gli adulti non sanno ben gestire. A questo punto è chiaro che occorre avere una rete di educatori preparati, formati, una pensa delle famiglie, che deve essere sempre attente a guardare anche i segnali che il bambino presenta quando arriva dall'asilo con delle ferite, ma anche soprattutto con una dimensione emotiva non adeguata, un bambino che incomincia a piangere, che non vuole più tornare all'asilo. È chiaro che occorre a questo punto da parte dei genitori interrogarsi del perché il bambino non è motivato a un percorso di questo tipo. D'altra parte occorre anche cercare in tutti i modi di creare una forte attenzione da parte del mondo pediatrico, del mondo dei professionisti dell'infanzia, perché attorno a queste strutture ci sia una grande cura, una grande attenzione. Questo la comunità deve in qualche modo pensare, che deve essere strutture queste sempre più al centro anche della vita quotidiana di tante persone. La legge che il governo sta per varare sull'educazione da 0 a 6 anni è importante in questo senso, cioè qualificare il personale, ma anche creare una forte rete tra famiglie e educatori. Professore, ma lei è per telecamere sì o telecamere no? Questa è la domanda che poi facciamo anche ai radioascoltatori. Ma guardi, allora, le telecamere sono un elemento marginale in questo discorso. Credo che sicuramente in certi casi delle telecamere possono essere funzionali per le situazioni estreme, dopo che c'è l'autorità giudiziaria che chiede di visionarle, ci possa essere interventi di questo tipo, però non è questa la soluzione, l'importante è prevenire. Cioè formare chi deve poi occuparsi dei bambini, chi deve occuparsi dei disabili, questo è quello che lei dice. Non c'è dubbio anche con una presenza costante da parte delle famiglie, in questo caso accanto agli educatori, cioè non è che gli educatori possano essere lasciati soli. Se c'è una situazione di disagio si percepisce andando la mattina, accostando il bambino agli educatori, vedendo come si comportano, come reagiscono col bambino. Queste sono tutte cose che vanno curate con grande attenzione. Vice sindaco, ci sono un po' di polemiche perché il titolare e la fidanzata, che sono stati poi incastrati dal video, che erano i gestori di questo asilo, donna è stata è attualmente agli arresti domiciliari, l'uomo invece è stato lasciato libero. Secondo lei forse si poteva fare un po' di più, magari mettere tutti e due agli arresti domiciliari per dare anche come monito anche in questi casi? Ma noi siamo tutti sconvolti, per cui credo che forse rispondo più di pancia che di testa, e certo, come dire, un'esemplarità ci avrebbe un po' più rassicurato. Di testa dico che l'asilo in questo momento è chiuso, non si reitera il reato. Adesso io mi concentrerei sulla costruzione di quella che poi è appunto l'impianto che porterà al processo. Sono interessata in questo momento a capire anche cosa succederà dopo e che tipo di relazioni potremo noi instaurare in futuro con le altre strutture, perché io credo che sia importante ridimensionare un momento la questione in modo tale da non creare un allarmismo diffuso che impedisce quell'alleanza di cui parlava il professore, che credo sia particolarmente significativa fra famiglie, istituzioni ed enti proposti per l'educazione, perché se non ripristiniamo questo clima anche di fattiva collaborazione andiamo incontro a periodi di grande fatica. Quindi sicuramente c'è bisogno che sia fatta chiarezza e i responsabili siano puniti, e questo la magistratura sta facendo il suo corso, il suo mestiere, e credo che abbiamo bisogno anche di risposte rapide. Dall'altro canto io credo importante però ristabilire la supremazia della pedagogia e dell'educazione in quelli che sono i contesti educativi. Abbiamo bisogno di recuperare fiducia da parte dei genitori e ripristinare degli ambienti in cui i bambini possano crescere sapendo che questa alleanza gli garantisce un'armonia nel quotidiano, perché la diffidenza che si può creare fra le famiglie e gli educatori non fa bene innanzitutto ai bambini. Quindi non significa mettere la testa sotto la sabbia o far finta che non sia successo niente, ovviamente. Dall'altro lato abbiamo bisogno di far emergere tutte quelle eccellenze che ci sono in modo tale che tornino a essere ciò di cui andiamo orgogliosi nei fatti. Ci costituiremo parte civile. Ok, vi costituirete come comune parte civile. Michela Vittoria Brambilla, per lei, so che voi siete sempre molto garantisti in Forza Italia, però magari aver semplicemente come misura cautelare previsto gli arresti domiciliari per tutte e due coloro che gestivano questo asilo sarebbe stato meglio? Ma guardi, noi siamo garantisti, però qui c'è normalmente, siamo orgogliosi di esserlo, ma qui c'è un video, ci sono dubbi, voglio dire, per cui io credo che abusi e violenze siano orribili sempre, ma diventino particolarmente ripugnanti quando sono compiuti proprio su soggetti deboli come i bambini, gli anziani, i malati o da persone che se ne occupano per mestiere e dovrebbero essere i primi a difenderli. No, io guardi, questo tipo di maltrattamento lo chiamerei maltrattamento istituzionale. E comporta proprio la violazione di quel rapporto di fiducia che si diceva e che può assumere varie forme, no? Cattiva gestione delle procedure, discriminazione, trascuratezza, violenze psicologiche, fisiche, sessuali, perché a volte è anche questo, ecco. E quindi io penso che in questi casi non si debba avere nessun tentennamento, anche perché questo tipo di, appunto, maltrattamento istituzionale, chiamiamolo così, è un fenomeno fortunatamente ancora limitato dal punto di vista numerico, cioè, e questo è indubbio, ma è certamente in crescita e comunque abbastanza diffuso da meritare un approfondimento, magari attraverso una specifica indagine conoscitiva che nella nostra commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza io ho intenzione di proporre, o comunque ascoltando la voce degli operatori e degli esperti, perché guardate, vi do solo un dato, parliamo di bambini maltrattati in Italia, la prima indagine nazionale di Cismaiter Desoma, che è stata presentata nel maggio 2015, stima in circa 91.000 i bambini presi in carico dai servizi sociali per maltrattamento in Italia e in 13 miliardi annui i costi che la collettività deve sopportare per questo fenomeno, e che è una situazione, come comprendete, inaccettabile. E voglio dare un ultimo dato ancora, perché è giusto che queste cose si sappiano, cioè i reati contro minori sono aumentati del 24% nel 2014, cioè parliamo di 5.356 in valore assoluto, di cui quasi un miliardo sono casi di violenza sessuale, e purtroppo si verificano soprattutto negli ambienti che dovrebbero essere quelli più protetti, e questa è un'altra cosa che va fatta sapere. E quali sono questi ambienti? La famiglia o gli istituti scolastici? Questo dice l'indagine, e proprio purtroppo il maltrattamento in famiglia è reato con il maggior numero di vittime tra i bimbi e i ragazzi, confermando proprio che l'unità familiare, che dovrebbe rappresentare il luogo più sicuro e più protetto, è in realtà invece, questo ci dicono i numeri, ancora quello a maggiore rischio. Ecco, tutte queste cose e tutti questi elementi ci fanno riflettere sulla necessità, uno, di approfondire, e due, di dare priorità assoluta a questo tipo di tematiche. Quindi ho ascoltato con piacere le parole del vice sindaco, che capisco bene si pone un tema di bilancio, di costi. Ecco, io credo che davanti ai minori, davanti ai bambini, ci debba essere una priorità. Governare, una priorità, vuol dire scegliere, per cui io credo che a livello di governo nazionale, ma anche appunto di governo delle città, la scelta debba prima di tutto mettere sempre i minori. I minori. La interrompo perché ho lo spazio per un'ultima domanda flash al professor Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro. Quando un genitore, come fa a accorgersi che il bambino ha subito maltrattamenti? Perché questi bambini dicevano che i lividi se li facevano giocando. Come possiamo intervenire? Se dà questo consiglio molto breve. Da una parte occorre cogliere questi segnali attraverso un ascolto del bambino, cercando di capire attraverso le sue parole, anche se talvolta le parole del bambino sono difficili da comprendere quando è molto piccolo, ma attraverso il gioco, attraverso le capacità che il bambino ha di esprimere il suo disagio, quello che è in qualche modo una sofferenza, una paura, un dolore profondo, e questo richiede immediatamente un'attivazione di tutte le misure per valutare quello che è successo alla base di questo dolore, e questa sofferenza profonda può lasciare dei segni profondi se di fatto non viene curata adeguatamente. Ringrazio Anna Scauzzo, vice sindaco di Milano, Michela Vittoria Brambilla, presidente della commissione bicamerale, professor Ernesto Caffo, presidente del Telefono Azzurro. Linea alla regia. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Ma cos'è quest'estate? E torniamo a parlare brevemente di questo scandalo che è avvenuto nell'asilo di Milano, dove i bambini venivano maltrattati, con un radioascoltatore che vuole intervenire, ed è Giovanni. Valerio, qual è la sua testimonianza? Valerio, da dove chiama? Buongiorno, io chiamo da Roma e non ho avuto esperienze dirette importanti, perché al massimo, il massimo che mi è capitato è che nel passaggio da una scuola materna privata di ottima qualità a una scuola materna comunale ho avuto, diciamo, una delle due maestre, diciamo, che cercava veramente di fare il minimo indispensabile, di prendersela anche molto comoda. Ma quindi non un episodio di lassismo. La cosa che volevo testimoniare invece era questa. Io non avrei, nonostante ne capisca l'istintivo desiderio da parte di tutti, probabilmente per primi da parte dei genitori, non avrei una fiducia illimitata nella possibilità di deterrenza derivante dalle telecamere, perché siccome è evidente che non è veramente improbabile e improponibile da un punto di vista tecnico pensare di riempire di un impianto dettagliato come quello della CIA ogni singolo asilo nido privato che può essere aperto con relativa facilità, eccetera eccetera, questo tipo di telecamere, che tra l'altro si presterebbero molto bene anche per le case di riposo, altro luogo in cui approfittando del fatto che quindi lei il testimone può diventare meno attendibile, non vorrei che si creasse una situazione, diciamo, in cui l'operatrice della casa di riposo, che non ci sta tanto con la testa, poi minaccia il vecchietto, parlandogli a bassa voce, di portarlo nello sgabuzzino dove di picchiarlo. Ho capito quello che vuole dire. La ringrazio perché abbiamo un altro radioascoltatore. Interventi breve, Vincenzo da Formia. Qual è la sua testimonianza? Niente, mi associo al detto dell'onorevole Brambilla e del dottor Caffo. L'unica cosa che, vista la frequenza con cui avvengono questi fatti incresciosi, sarebbe veramente il caso, negli asili privati, a spese di chi lo gestisce, gli impianti di videosorveglianza, e purtroppo se ne deve far carico l'amministrazione pubblica nel caso di asili pubblici, però secondo me è indispensabile. È indispensabile le telecamere, infatti molti sms dicono questo, anche degli altri ascoltatori. La formazione, per carità, la formazione è importante, tutto quello che hanno detto è importante, però secondo me un controllo va fatto. Ora cambiamo però argomento, perché sta succedendo qualcosa nel mondo giovanile. A Roma sempre la movida è fuori controllo, la vendita di alcolici, c'è una rivolta in centro dei comitati di quartiere, e poi abbiamo visto invece a Bergamo che una ragazza di 17 anni è entrata in coma etilico per aver bevuto un cocktail e mezzo, ha rischiato la vita perché era astemia. Quindi c'è una dipendenza che si sta verificando nelle nuove generazioni dall'alcol, non solo dalla droga. E noi abbiamo voluto sentire la testimonianza, abbiamo in linea con noi Giovanni, un nome di fantasia, di un ragazzo a 25 anni, è entrato in comunità a San Patrignano a 21 anni e ha iniziato a bere a 13 anni. È così, Giovanni? Giovanni, buongiorno. Pronto? Pronto? Giovanni, mi senti? Sì. Ecco, tu hai 25 anni e hai iniziato a bere a 13 anni. Che cosa è successo nella tua vita? Allora, io ho iniziato a bere a 13 anni e in quell'età, quando andavo alle superiori, ho iniziato, diciamo, l'incubo dell'alcol, perché ho iniziato con le canne e subito dopo con l'alcol. Grandi abusi di alcol, di bottiglie superalcolici, anche quando andavo a scuola, diciamo. Quindi tu che ti svegliavi la mattina con questo pensiero fisso che dovevi sì, bere? Sì, era il nostro pensiero, sì, del mio e dei miei compagni di scuola, diciamo, insomma, dai. E che cosa bevevi? Whisky, vodka, tu parli di superalcolici? Sì, superalcolici intendo, sì, parliamo di Sambuca, Limoncello, questi alcolici qua. Ah, quindi anche cose che sembrano così innocue, no? Perché si mettono nel caffè oppure si bevono dopo il pasto, certo. Bevono le signore, invece sono quelle che poi ti caricano in una dipendenza. Quando ti sei reso conto che a un certo punto la tua vita ti stava sfuggendo di mano? Con l'alcol? Sì. Con l'alcol, quando ho subito un coma etilico. Sono andato in coma etilico una sera in un locale, in una discoteca a Roma, e quella sera non mi ricordo quasi niente perché avevamo talmente esagerato con l'alcol che mi ricordo che mi sono ritrovato in ospedale, insomma, avevo la faccia che era completamente distrutta perché ero svenuto, ero andato in coma e insomma dai. E quindi hai capito che c'era qualcosa che non andava, quanti anni avevi? Non ho capito, scusa. Quanti anni avevi in quel momento? Avevo 20 anni. 20 anni, hai capito che dovevi smettere, ma oltre all'alcol facevi anche uso di droga? Sì. Specialmente cocaina, perché l'associavo con l'alcol, era un mix di distruzione perfetta, totale, di distruzione perfetta. Quindi tu a un certo punto hai capito che dovevi interrompere e hai iniziato un percorso, sei andato in comunità a San Patrignano. Sì, ora sono circa 3 anni e 2 sono qua in comunità San Patrignano. E da quanto è che non bevi e che ovviamente non fai uso di cocaina? Sono più di 3 anni adesso ormai. Che non tocchi nemmeno un goccio di vino durante il pasto? No, neanche a pranzo, no, né a pranzo e né a cena qua, no, assolutamente no. E che cosa vuoi dire a dei ragazzi che iniziano a bere? Hai visto che adesso c'è la moda addirittura di spararsi lo sciottino, per usare una terminologia giovanile, no? Di metterselo addirittura nell'occhio, perché così almeno l'alcol va in circolo subito. Che cosa vuoi dire a questi tuoi coetanei? Allora, io penso che i ragazzi dovrebbero cercare realmente la gratificazione delle cose che fanno, cioè quello che può essere una vita sociale, lavorativa, individuale, anche nello sport, in cui a trovare delle cose che gratificano la persona, insomma, dai, non cercare lo sballo e non cercare la gratificazione in queste sostanze, in questo alcol, diciamo, insomma, dai, ecco. Cioè tu dici... Vai a fare una bella corsa, ti ecciti ugualmente, però fai una piuttosto cosa sana. Sì, piuttosto sì. Ora, l'ultima domanda che ti voglio fare, hai 25 anni, quindi hai tutta la vita davanti a te. Che cosa vuoi fare? Qual è il tuo progetto per il tuo futuro? Allora, io qua in comunità ho intrapreso un po' una strada di parrucchiere, insomma, diciamo, ho iniziato da circa 1 anno e mezzo a tagliare i capelli qua ai ragazzi in comunità. Quindi penso che se avrò occasione, una volta uscito fuori da qua, vorrò trovarmi un barbiere dove fare un po' di gavetta, insomma, dai, con gli stipendi che prenderò vorrei pagarmi gli studi per poi aprirmi un locale, insomma, un parrucchiere uomo e donna, insomma, vorrei aprire questa attività qua. E quindi trovi nella creatività di questo lavoro, no? di rendere, sì, belle le persone, anche una bellezza interiore che l'alcol, sì, poi non ti dà. Bravo, bravo, perfettamente. Allora, noi ringraziamo Giovanni, ovviamente abbiamo detto un nome di fantasia, anche grazie per il coraggio di averci dato la tua testimonianza. Ci sono molti tuoi coetanei che ci stanno scrivendo, c'è anche una giovane alcolista anonima e con me tra alti e bassi sta funzionando, non c'è solo la comunità, dice lei, però invece abbiamo sentito per Giovanni che è importante entrare in comunità, giusto? Cioè tu non ce l'avresti fatta da solo? No, assolutamente no. E parliamo proprio con Osvaldo Cosvaldo Petris, che fa parte del comitato di gestione della comunità San Patrignano. Buongiorno Osvaldo. Buongiorno a voi. Ecco, abbiamo sentito la testimonianza di Giovanni. Quanti sono i giovani che adesso arrivano a San Patrignano con il problema dell'alcol, non solo della droga? Ma il problema è quello di fuggire dalle difficoltà e di non avere la forza per affrontarle, perché soprattutto in giovane età non si può sapere che solo attraversando le difficoltà si raggiunge la serenità, la felicità. Ecco, i fenomeni che noi vediamo sono sempre questi, sono ragazzi che si ingarbugliano, che cercano nell'alcol, nell'hashish, in tutte le forme che possono rifugiarsi, nelle quali possono rifugiarsi, di non affrontare la realtà. Ma ancora di più, noi frequentiamo tantissimi ragazzini delle scuole, di terza media e delle prime superiori, perché ne incontriamo come San Patrignano più di 50.000 l'anno. E quello che si verifica è sempre questo, è l'incapacità di affrontare le difficoltà. Sono circondati da degli adulti che invece che spingerli, o quantomeno una buona parte invece che spingerli, accetta il fatto che farsi una canna è come bersi un bicchiere. bicchiere d'acqua, che farsi la bevuta è una cosa normale, e poi a 14 anni cadono in coma etilico. Io ho assistito l'estate scorsa nel pronto soccorso di Riccione a questo tipo di scena, un 14enne in coma etilico con il dottore che tranquillizzava i genitori dicendo che ogni weekend gli succedeva. Ecco, ma perché sta succedendo proprio sull'alcol? Perché è più facile da reperire, perché dà l'impressione che non sia poi una droga, no? Esattamente, non è... perché è la prima forma di liberalizzazione. L'alcol non può essere paragonato alla droga se bevuto bicchiere di vino di qualità, piuttosto che fatta la cena con un amico, con la famiglia, e valorizzata da un buon bicchiere di vino. Ma nel momento in cui viene utilizzato per ricercare lo sballo diventa esattamente una droga. E questo è quello che sta succedendo. In un periodo storico dove noi diciamo ai nostri giovani: non preoccupatevi, liberalizziamo anche le canne, la marijuana, intanto cosa c'è di male? Lei è contrario alla legalizzazione della cannabis? Assolutamente sì, perché è un messaggio che continuiamo a dare che è esattamente il contrario di quello che i nostri ragazzini hanno bisogno di sentirsi dire. I ragazzini hanno bisogno di riferimenti, hanno bisogno di strade chiare, hanno bisogno di sì e di no. Non hanno bisogno di sentirsi giustificati perché non affrontano le paure, le difficoltà, tutte le ambizioni che la vita inevitabilmente ti mette davanti. Nel momento che riusciamo a fargli superare gli ostacoli, e questo è quello che cerchiamo di fare a San Patrignano, vedi che rifioriscono, come Giovanni, che non solo senza bere o senza drogarsi, ma nemmeno senza fumare le sigarette, affrontando giorno dopo giorno da 3 anni e 2 mesi i suoi impegni lavorativi, cercando nei sogni la sua realizzazione, facendosi aiutare e a sua volta aiutando gli altri suoi coetanei, ha ritrovato la voglia di vivere. Questo hanno bisogno i giovani di sentirsi dire e di soprattutto di avere intorno a sé dei riferimenti. Noi adulti per loro siamo dei riferimenti che non accettano compromessi, ma che li spingono a diventare adulti sereni. Resti con noi, Petris, perché abbiamo in linea Dina Nascetti, del presidente del comitato Vivere Trastevere, dove la movida impazza e purtroppo ci sono moltissime bottiglie. A proposito, ritorniamo a quello che è stato all'inizio della nostra trasmissione, ci sono bottiglie di birra lasciate per strada, ci sono ragazzi che si ubriacano ogni giorno, è così, Dina? Sì, assolutamente sì, ogni sera. E per gli studenti americani, che noi abbiamo due università qui a Trastevere, nella John Cabot, addirittura iniziano la mattina a ubriacarsi. Io però volevo uscire un momento da tutto questo e fare delle citazioni per quello che riguarda Trastevere. La FIP e la Confcommercio, in un dossier fatto circa 3 anni fa sulla mala movida, parla di Trastevere come effettivamente a Trastevere la mala movida è notevole. Quindi questo lo dice la FIP e la Commercio in questo dossier sulla mala movida in tutta Italia. Lei che cosa trova la mattina quando si alza esce la fuori? La mattina c'è l'ama che già provvede. Naturalmente sentiamo le bottiglie rotolare sui sanpietrini, ma non è tanto, cioè l'ama a un certo punto pulisce, quindi la mattina alle 8 già abbiamo le strade pulite, poi da questo consumo alcolico. L'altra cosa che volevo dire su Trastevere: c'è stato un recente studio dell'UNESCO sul centro storico di Roma, dove segnala appunto di alleggerire la movida a Trastevere, per dire non siamo soltanto noi residenti che ci lamentiamo. Non dorme praticamente. Non si dorme a Piazza in Piscinola. Piazza in Piscinola è un po' più tranquillo, diciamo che la movida vera eccetera ruota tutto intorno a Piazza Trilussa e si sta allargando naturalmente, però è tutto quello intorno a Piazza Trilussa, fino al Largo De Mata, Piazza Sonnino, questa è l'area si sta allargando anche a Piazza San Cosimato, ricevo molte lamentele. Che cosa significa? Che per esempio uno riesce, nonostante i doppi vetri e i tripli vetri eccetera, a addormentarsi a una certa ora e poi viene svegliato da un suono di bongo alle 3:30 del mattino, e questo succede regolarmente. Chiaro. Allora noi diamo la linea alla viabilità per ritrovarci subito dopo. Ma cos'è quest'estate? E noi abbiamo molti sms su alcol, movida, giovani. Il problema sono ovviamente i genitori e solo dopo i ragazzi. Se non li educhi, bevono e fumano, dice Guido da Varese. La canapa è fisicamente meno dannosa del vino, dice un radioascoltatore che non si firma. Un bicchiere di vino può generare cirrosi. E ho tentato più volte di chiamare, ci dice una volontaria, ci scusiamo perché sappiamo tutti di piccole violenze, il tema dell'asilo e delle violenze dell'asilo. Allora, noi poi continuiamo invece a parlare di movida, alcol, con Michele Contel, segretario generale dell'Osservatorio Permanente sui Giovani e l'Alcol. Volevamo chiedere, è così, sta aumentando il consumo di alcol tra i giovani e sta diventando il problema più che la droga? Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Se guardiamo al fenomeno da un punto di vista epidemiologico, quindi un po' più impersonale rispetto alle buone testimonianze sentite finora, va ricordato, è un dato assai consolidato da tutte le ricerche che vengono fatte in Italia, che a livello di popolazione i consumi di bevande alcoliche sono in riduzione, lo sono da anni. L'Italia è il primo paese che senza politiche attive ha raggiunto i livelli che l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di discesa dei consumi. Oggi almeno una bevanda alcolica nell'anno è bevuta dal 64% della popolazione. I consumi quotidiani sono in diminuzione negli ultimi 10 anni, dal 31,1% al 22,2%. Ecco, quando detto è che questo, l'alcol, quando è che l'alcol, perché un buon bicchiere di vino, noi siamo dei produttori fantastici, che accompagna un pesce, è un piacere nella vita, quando è che diventa un vizio? L'alcol, come tutte le sostanze che in qualche maniera provocano piacere, rischiano di indurre, soprattutto in persone che hanno delle vulnerabilità particolari, dei fenomeni di dipendenza. Le sostanze che provocano piacere entrano in un circuito di remunerazione gestito dal nostro sistema nervoso centrale, che in alcuni individui può portare alla dipendenza. Chiaro che se istruiamo una popolazione ad usare in maniera indiscriminata di qualsiasi sostanza, avremo sempre dei problemi. Per risolvere questo tipo di problema, soprattutto oggi nella fascia di popolazione più giovane, 18-24 anni, che l'Istat segnala come quelli maggiormente a rischio, perché il modello di consumo mediterraneo è in qualche maniera intaccato dai modelli di consumo che vengono dal nord Europa, quindi non il bere per il piacere dello stare insieme, ma il bere per lo sballare, per cercare una via d'uscita dalle difficoltà, è chiaro che avremo un problema anche di abbandono di quelle che sono le modalità corrette di gestire una sostanza. In questo senso anche il fenomeno delle movide si inserisce esattamente in questa problematica. Le movide sono una scorciatoia, probabilmente sono il momento degradato di un'istanza che inizialmente è positiva, quella di, da parte dei giovani, di recuperare e reintegrarsi con i centri storici. Molti centri storici che avevano una storia di degrado, di abbandono, anche di problematiche sociali emergenti, sono state in parte recuperate dalla presenza di locali e quindi dalla presenza dei giovani. Bisogna trovare il modo di uscire dalle movide negative e inserire dentro elementi di movida positiva. Mi rendo conto che non è facile, però questa è una tendenza che va valorizzata. Paolo Gelsomini, segretario del coordinamento Città Storica di Roma. Noi abbiamo parlato di Trastevere, ma in realtà è tutto il centro storico, perché bottiglie di birra vengono lasciate sotto la statua di Giordano Bruno a Campo dei Fiori, dove si svolge un party all'aria aperta tutto l'anno, è così? Sì, è senz'altro così. Vorrei ricordare che non è soltanto un problema di centro storico, ma anche di altre zone di Roma, chiamate città storica, e quindi cito anche Ponte Milvio, per esempio, o San Lorenzo. Tant'è che ci sono delle indicazioni che vengono da organismi sovracomunali, per esempio il più importante credo che sia quello che viene dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, di cui noi spesso ci dimentichiamo, ma il guaio peggiore è che sono i nostri amministratori che se ne dimenticano quando parlano di liberalizzazioni. Sembra che sia una parola magica al riparo della quale si possa fare qualsiasi cosa. Non è così, perché il piano dell'Organizzazione Mondiale della Sanità indica delle importanti prescrizioni per limitare l'abuso del consumo di alcol, le quali l'obbligo per i comuni di adottare dei provvedimenti per ridurre e contenere gli orari e la vendita delle bevande alcoliche. Che cosa succede a Roma, per esempio? Perché in altre città, a Milano, è vietato portare la bottiglia di birra fuori dal locale, cioè il gestore è obbligato a mettere la birra, il cocktail, in un bicchiere di plastica. A Roma invece noi vediamo che queste bottiglie girano e anche in altri centri, anche in altri centri magari di villeggiatura ci sono questi problemi. Certo. Ecco, quindi qual è la prima cosa? Una stretta anche riguardo ai gestori? Sicuramente, tra l'altro questo è contemplato nella ordinanza che non è stata reiterata, l'ordinanza dell'anno scorso che ha cessato la propria efficacia il 31 ottobre, diceva appunto che non si potevano somministrare bevande da asporto dopo le ore 22 e che c'era l'obbligo del vetro, anzi che non si poteva portare bottiglie fuori, appunto come sta dicendo lei, e che poi da una certa ora in poi si doveva addirittura cessare la somministrazione di alcol, era la mezzanotte e dopodiché c'era anche la chiusura dei locali, quindi erano tutte limitazioni. Soltanto qual è la parzialità di questi provvedimenti? Sono la parzialità che è connaturata un'ordinanza, l'ordinanza come si sa è contingibile, qua il problema è per tutto l'anno naturalmente, e quindi si tenta di far entrare questi provvedimenti di limitazione che, ripeto, sono contemplati da circolari della Regione Lazio, la Direzione Regionale delle Attività Produttive, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, da circolari esplicativi del Ministero dello Sviluppo Economico, quindi non è che stiamo senza copertura, e quindi si tenta di far entrare questi provvedimenti all'interno, questa è la cosa importante, del regolamento di polizia urbana, così diventa una norma stabile e non più una norma contingibile legata ad un'ordinanza. E questo è il punto politico che la nostra sindaca dovrà fare. Michele Contella, abbiamo sentito, ma non è meglio fare una legge nazionale, così almeno ho capito che potrebbe questo inficiare il federalismo, ma non è meglio fare una legge nazionale e che regoli tutto? Perché Paolo ci scrive anche sulle discoteche di Riccione, dice le cose non cambiano, non cambieranno mai. Ho visto un servizio su una discoteca di Riccione e si continua a spacciare droga e a bere. Quindi qual è, come se ne esce? Dunque, intanto non so se avete dato informazione in trasmissione, ma ieri sera alle 9 è uscita un'ANSA, la sindaca Raggi ha firmato l'ordinanza di cui si stava parlando. Quindi è una buona notizia per Roma, ma a livello anche nazionale? A livello nazionale, allora, voglio citare il discorso della copertura legislativa e amministrativa. Allora, in linea generale questo tipo di provvedimenti ha senso che rimangano dei provvedimenti a livello locale. Non si può gestire con un'unica norma culture e contesti che sono differenziati per presenza sociale, per uso del tempo libero, per organizzazione dei locali, per tipo di traffico che verte su una certa zona. Mi rendo conto che questo può rischiare di dare l'impressione di una legislazione a macchia di leopardo, però anche l'Unione Europea raccomanda che le politiche di implementazione sul tema della salute, l'Unione Europea recepisce le logiche dell'OMS, devono essere applicate e gestite a livello locale. Da questo punto di vista io non credo che un'unica norma possa risolvere i problemi, in particolare un'unica norma ispirata a principi di proibizione generalizzata. Tutte le sostanze legali e illegali hanno un loro zoccolo duro di consumo che deve naturalmente essere gestito in maniera intelligente. Il modo migliore per limitare i danni è quello di trovare a livello locale delle procedure di consenso, delle procedure negoziate in cui le parti vengono messe di fronte alle loro responsabilità e in cui i controlli devono essere severi ed esigenti. Quindi lei dice non una sola regola. Sentiamo anche i nostri radioascoltatori che ci scrivono cercare poi di ripristinare il reato di disturbo alla quiete pubblica. Forse questo il problema, Paolo Gelsomini, perché abbiamo sentito Dina Nascetti sulle zone Movida, e ricordiamo anche Milano alla zona Movida lungo i Navigli. Il problema è che poi i residenti non dormono. Avere una casa davanti a testaccio vuol dire avere la Movida fino alle 2 di notte, anzi all'inizio era fino alle 6 di mattina. Il disturbo alla quiete pubblica, quando si chiamano i vigili, poi i vigili hanno difficoltà ad intervenire. Anche questo potrebbe essere una possibilità? Esattamente quello che dicevo prima, sono assolutamente d'accordo con chi mi ha preceduto, non è possibile fare una norma nazionale perché ci sono dei casi diversi da luogo a luogo, però ci sono delle condizioni generali, quello dell'attentato alla salute psicofisica dei cittadini, dei residenti è un problema generale. E come si può fronteggiare, risolvere questo problema? Proprio passando da un discorso di legalità molto astratto ad un discorso di minaccia alla salute pubblica, di attentato alla quiete pubblica, e l'apparato normativo può essere contenuto soltanto in un regolamento di polizia urbana, non basta l'ordinanza. Sono felice che la sindaca l'abbia reiterata, non conosciamo ancora i termini, gli orari e i particolari, però è già un primo passo, ma non basta, deve essere contenuto in un regolamento di polizia urbana. Quindi poi i vigili, i controlli li devono fare. Allora io ringrazio per questa seconda parte Michele Contel e Paolo Gelsomini, segretario generale osservatore permanente sui giovani alcol, segretario del coordinamento Città Storica di Roma. Ringrazio poi la mia redazione, Massimiliano Lollis, Silvi Boccaletti, Alessandro Longoni. Vi do appuntamento alle 8:15 per domani mattina.